America 24 di Mario Platero. And what we are going to be working on over the next several weeks is developing a significant regime of sanctions. Buongiorno da New York, una New York coperta di neve, scuole chiuse, città semi paralizzata da una tempesta. Da questa New York vi saluta Mario Platero. Benvenuti ad America 24, la voce che avete appena sentito del presidente Obama, una voce preoccupata che parla di Iran, un intervento inusuale, non programmato, giustificato dalla gravità della situazione. L'Iran ha risposto con uno schiaffo alle aperture americane, perseguirà in modo autonomo l'arricchimento di uranio per alimentare degli impianti medici e una sfida al rialzo. Mesi fa a Ginevra l'Iran aveva promesso di delegare l'arricchimento dell'uranio a Russia e Francia. Non solo. A Teheran il regime ha avviato retate per bloccare l'opposizione. Notizie di questa mattina ci dicono che ci sono stati almeno 1000 arresti preventivi nelle ultime settimane. L'obiettivo è neutralizzare una manifestazione annunciata per il 13 di febbraio, fra pochi giorni. Sarà il grande banco di prova interno. Una doppia sfida dunque per questo e Obama è arrivato a sorpresa nella sala stampa della Casa Bianca al posto del portavoce Robert Gibbs. Nelle prossime settimane, ha annunciato il presidente, svilupperemo un regime di sanzioni che dimostrerà a Teheran quanto sono isolati dalla comunità internazionale. Parole che abbiamo già ascoltato. Intanto l'Iran continua a giocare con l'Occidente. Chiediamo a Brett McGurk del Council on Foreign Relations, che ha lavorato sull'Iran al Consiglio per la Sicurezza Nazionale sia con Bush che con Obama, di darci un'idea della situazione. Well, we're seeing the Iranians press on all cylinders, both suppressing domestic opposition, pressing as hard as they can on the nuclear issue. C'è una escalation in corso, ci dice Brett. L'Iran gioca al rialzo sul fronte nucleare e su quello interno, ma destabilizza anche l'Iraq in vista delle elezioni dei primi di marzo. È una situazione pericolosa e ci sono due ipotesi. Alza la voce per poi negoziare davvero un compromesso, oppure sta facendo sul serio. Brett in effetti pensa che ci troviamo davanti alla seconda ipotesi. L'Iran sta facendo sul serio e dunque gli chiediamo come potrà reagire il presidente Obama. È una tematica questa che chiarirà la posizione dell'amministrazione Obama in politica estera. Alla fine ogni presidente si gioca il suo buon nome e la riconferma su un episodio importante di politica estera. Carter cadde proprio sull'Iran e Obama si trova davanti a una situazione pericolosa. La politica della mano tesa non ha funzionato e ora deve pensare al dopo. Non è facile, la partita è complessa, ci dice sempre Brett. La Casa Bianca ha bisogno della Russia e della Cina, ma nessuno dei due è pronto ad imporre sanzioni contro l'Iran, almeno per ora, o ad aiutare l'America. Le sanzioni, inoltre, non funzionano, o meglio, una potrebbe funzionare, bloccare le esportazioni di gas dall'India. Questo colpirebbe davvero i consumatori iraniani, ma l'India, dice Brett, non lo farà. C'è una finestra di 6 mesi e dobbiamo chiederci naturalmente se c'è un'ipotesi di attacco. E Brett dice che Israele ha già comunicato agli Stati Uniti di essere pronto all'attacco se ce ne sarà bisogno, di poterlo fare in modo efficace. Ma Washington è di nuovo imbrigliata. Un attacco riporterebbe indietro la regione di anni dal punto di vista della distensione. Ed è questo il problema. L'Iran andrà avanti fino a quando avrà la percezione che l'Occidente è impotente. Una dinamica molto pericolosa, perché alla fine potrebbe davvero portare alla rottura. 11:25 di domenica mattina, Middletown, Connecticut, c'è un'esplosione a una centrale elettrica in fase di costruzione. La notizia si diffonde, le agenzie americane sono alquanto vaghe, parlano di un paio di morti, alcuni feriti. In Italia invece questa notizia esplode, diventa il giorno dopo l'apertura di prima pagina dei giornali italiani, sul Corriere della Sera, sulla Repubblica. Repubblica, disastro negli USA, esplode una centrale e una carneficina. Si parla di decine di morti, le agenzie nella sera parlano addirittura di 50 morti. Sensazionalismo, sensazionalismo in Italia, meno in America, dopo invece la notizia è stata relegata nelle pagine interne. Ecco, come mai questa differenza di reazione? Lo chiediamo a Paolo Parigi, professore di sociologia all'Università di Stanford. Buongiorno professore, qual è la sua reazione a questa differenza di interpretazione di due fatti? Straordinaria in Italia, dove peraltro il fatto non è avvenuto, molto più modesta negli Stati Uniti, che invece dovrebbero essere più interessati. Ma la prima reazione è che sono sorpreso che mia madre non mi abbia chiamato, data la reazione spropositata forse dei media italiani a questa, che in effetti è una tragedia, ma molto localizzata. Nelle pagine di alcuni dei giornali italiani, appunto notizie di prima pagina, due pagine interne, addirittura un paragone con l'incidente dello shuttle, con Three Mile Island, quando ci fu l'esplosione nucleare. Ecco, perché questo sensazionalismo in cui così si cerca di fare di tutto un'erba un fascio? Devo dire, ci sono vari motivi, credo. In parte la maggiore connessione dei media nel mondo dovuta a internet, un'attenzione dei media italiani alle questioni sul lavoro e forse una certa immagine degli Stati Uniti che si vuol vendere. A me sembra che l'attenzione dei media italiani sul lavoro, sulle questioni legate al lavoro continua da diverso tempo e forse risale agli interessi del Presidente della Repubblica Napolitano. È nell'agenda della Presidenza della Repubblica questo tema. E ci sono, secondo lei, delle altre ragioni per cui i nostri media così tendono a drammatizzare, a sensazionalizzare qualche cosa che succede negli Stati Uniti? È chiaro che c'è una certa immagine degli Stati Uniti che si vuol vendere, che o perlomeno che si ritiene si venda, ed è l'immagine del gigante vulnerabile, della potenza in difficoltà. Che consiglio può dare a qualcuno che il giorno dopo deve scrivere un giornale e quindi in teoria ha il tempo per poter valutare questo tipo di informazione? Ma forse di ponderare meglio la portata della notizia. È chiaro che questa è una cosa difficile da farsi, ma è anche vero che i giornalisti italiani avrebbero potuto guardare lo spazio dedicato all'incidente sui media italiani e sui media americani e vedere che era molto minore, quindi internet potrebbe essere un vantaggio in questo caso. Dunque, secondo lei, professore, questa reazione italiana è spropositata? Sì, assolutamente spropositata. E come mai invece in America non è successo? In questo caso questa era una tragedia che ha coinvolto 5 persone, le 5 famiglie, una tragedia incommensurabile, ma i media americani stanno sul mercato, sono in competizione e se si guarda ai topics che sono più in questo momento ricercati su Google, è una ricerca che chiunque può fare, si vede che c'è il Winter Storm, le idee per San Valentino, il Super Bowl e i problemi legati alla Toyota. Certo, no, questo è molto interessante, quindi è l'idea che è una cosa che riguarda e colpisce l'immaginazione della gente preoccupandola e per esempio anche nel caso dell'incidente dello shuttle ci furono poi un numero relativamente contenuto di morti, però in quel caso entrò in gioco l'esplorazione spaziale, l'idea di questi eroi che andavano in una missione e così via immagino. Bene, certo. Ringraziamo il professor Parigi, sentiamo presto, grazie. Arrivederci e grazie a lei. Passiamo ad altre notizie di attualità. Megan Fox, bella dalle mani brutte. L'attrice, una delle più pagate di Hollywood, ha i pollici che sembrano alluci. Per questo handicap le sue mani vengono sempre doppiate da una controfigura nei suoi film. New York sono stati avvistati 3 coyote alla Columbia University, vicino a Central Park. Un quarto coyote è stato avvistato proprio nel cuore di Central Park, nel mezzo del laghetto congelato. Ci sono 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beyoncé e Alicia Keys, ex rivali, hanno girato ieri un video insieme in una baraccopoli di Rio de Janeiro. Beyoncé in tour brasiliana ha deciso infatti di apparire in alcune immagini del video della canzone Put It In A Love dell'ultimo album della Keys. Eccole insieme in Put It In Love. New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!